English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di ambiente. Mancano pochi giorni all'Earth Day, alla giornata della Terra, sarà il 22 aprile. Il nostro English 24 ci regala un servizio che parla di Alaska. A portarci in questa terra molto fredda e molto lontana c'è l'International Herald Tribune, che ci parla di energia verde in questo servizio che noi abbiamo tratto dal nostro CD. Beyond the fishing boats, the snug homes and the tanks of diesel fuel marking this Eskimo village on the Bering Sea, three huge wind turbines tower over the tundra. Their blades spin slowly in a breeze cold enough to freeze skin. One of the nation's harshest landscapes, it turns out, is becoming fertile ground for green power. As interest in cleaning up power generation grows around the country, Alaska is fast becoming a testing ground for new technologies and an unlikely experiment in oil state support for renewable energy. Alaskans once cast a wary eye on anything smacking of environmentalism, but today they are investing heavily in green power, not so much to reduce emissions as to save cash. Partiamo con una descrizione di questo paesaggio dell'Alaska che già ci mette i brividi. Sì, dice la giornalista, c'è qualcosa beyond the fishing boats, c'è da qualcosa da scoprire naturalmente per noi, per la giornalista che ci conduce in questo posto, oltre le barche dei pescatori e questi tanks of diesel fuel, questi enormi serbatoi, tank vuol dire serbatoio di carburanti diesel naturalmente. E c'è qualcosa che tra l'altro si vede subito, queste sono huge, quindi enormi, wind turbines, queste turbine a vento, che poi sono dei giganteschi mulini a vento, versione Alaska. Versione Alaska, quindi diciamo i brividi, perché il vento non è precisamente freschino, è proprio un vento gelidissimo. Quindi queste wind turbines, they tower over the tundra, quindi svettano, tower naturalmente vuol dire torre, noi in italiano diciamo svettare sopra la tundra, che è naturalmente quel paesaggio con pochissima vegetazione, bassissima, che è tipica delle latitudini molto a nord. E queste blades, queste lame, le lame delle turbine di questi mulini a vento, appunto versione Alaska, they spin slowly. To spin vuol dire girare, ruotare. Naturalmente sappiamo che c'è anche lo spin doctor, che è quello che fa girare le persone come vuole, cioè un manipolatore magari anche in senso buono. Quindi queste lame girano lentamente, però costantemente, grazie appunto al vento che muove le lame o le pale, insomma, che come dicevi tu è molto freddo, quindi questa breeze cold enough to freeze skin, quindi una brezza fredda a sufficienza per congelare la pelle. Quando si va in questi posti, a me è capitato in Canada, bisogna stare attentissimi anche a respirare, perché a volte non ci si rende conto, ma si respira quest'aria freddissima e si rischia di congelare dall'interno, davvero, quindi bisogna stare attentissimi. Inquietante anche il paesaggio. Come viene definito questo landscape, questo paesaggio? One of the nations, nation naturalmente sono gli United States, l'Alaska è uno degli Stati Uniti d'America, quindi è una delle harshest landscape. Harsh vuol dire duro, quindi è una delle più dure, delle più ostili all'uomo naturalmente, landscapes, paesaggi. Ma qual è il lato positivo di tutto questo paesaggio? Sicuramente bellissimo, ma molto molto freddo. L'Alaska naturalmente è una terra ricchissima anche di petrolio, per questo si parlava di diesel fuel, perché per tanto tempo sono state anche fatte trivellazioni. E a sorpresa adesso è diventata un fertile ground for green power, quindi un terreno fertile per quella che viene chiamata l'energia verde, la potenza verde, che appunto è come quella di questi giganteschi mulini a vento. E quindi gli Stati Uniti stanno investendo heavily, pesantemente, non solo per una questione ecologica, ma per una questione economica, e quando vanno a braccetto, insomma, non è nemmeno una cattiva cosa. Sì, tant'è che una volta dice "The Alaskans once cast a wary eye". To cast an eye vuol dire dare un'occhiata, wary, stanco, quindi davano un'occhiata stufa, ovviamente così poco, con poca fiducia a tutto quello che aveva l'etichetta verde, e invece adesso si sono resi conto che si possono fare soldi, si può risparmiare cercando modi di creare energia verde. To save cash, insomma, risparmiare contante, soldi. Allora, si può fare tanto per l'ambiente, e a qualche giorno dalla giornata della Terra andiamo a vedere chi fa qualcosa. Ad esempio, a presentarsi in un video è l'ambasciata americana di Copenaghen. Welcome to the US Embassy in Copenhagen, Denmark, where it is easy being green. Embassy Copenhagen, in steps to become more environmentally conscious, has taken the following measures to greenify the facility and services offered to the embassy community. In Motorpool, three of the embassy's vehicles contain flexi-fuel engines, which means they use a combination of regular and an alternate fuel source like ethanol to reduce CO2 emissions. The embassy also has a robust recycling program for paper, metal, including soda cans, and other office supplies like printer cartridges. Motion sensors have been placed in every bathroom to turn on the lights when someone enters. The heat pumps are able to increase or decrease power consumption according to the load which saves energy. Allora, rimaniamo sempre al nord, perché dall'Alaska ci spostiamo alla Danimarca, sempre Stati Uniti, perché è l'ambasciata americana, a Copenhagen, where it is easy being green. È una buona notizia. Sì, perché in fondo ci sono, no? Poi ci sono anche dei libri che lo dicono, ci sono tanti modi normali che tutti possiamo, senza impiantare un mulino a vento come in Alaska, cose che possiamo fare per being green, per essere verdi, cioè per essere environmentally conscious, per essere coscienti dell'impatto che abbiamo sull'ambiente. E per esempio nell'ambasciata di Copenaghen hanno appunto adottato queste misure che sono più o meno alla portata di tutti. Mi piace molto questo verbo, to greenify the facility. Facility naturalmente non c'entra niente con facilità, ma è facility è l'edificio, il posto, può essere usato sia per una fabbrica che in questo caso per l'ambasciata. E questa ambasciata deve essere greenified, quindi to greenify deve essere verdizzata letteralmente. Quindi verdizziamo, e come verdizziamo? Ci sono alcune cose che insomma non possiamo dare per scontato. Sicuramente un recycling program, un programma di recupero e di riciclo è abbastanza scontato, ma ci sono alcune cose curiose, come ad esempio questi motion sensors. Motion sensors, che all'estero effettivamente mi capita a volte di vedere, sono quindi dei sensori che sentono il movimento, motion sensor letteralmente, e questi have been placed in every bathroom, sono stati messi, to be placed, in tutti i bagni, quindi quando uno entra in bagno, questi to turn on the light, quindi la luce si accende soltanto quando noi entriamo. In questo grandissimo edificio dove siamo noi adesso, al Sole 24 Ore, per esempio, è vero, le luci sono sempre accese, le luci dei bagni. C'è qualche maniaco della verdizzazione che le spegne, però sono la minoranza. Tutti noi forse non ce ne rendiamo conto, ma se si accendesse solo quando ne abbiamo bisogno risparmieremmo parecchio. E queste heat pumps? E queste heat pumps, che naturalmente sono delle pompe per il calore, che vengono according to, quindi la temperatura esterna e la temperatura interna, si attivano per evitare o di surriscaldare o magari di condizionare troppo quando non ce n'è bisogno. Ci vogliono degli accorgimenti, anche degli investimenti. Ad esempio, un investimento lo ha fatto Tom Hanks, che è entusiasta della sua automobile elettrica. We're back. You are now driving along with me in my electric car. This is an electric car, not a hybrid. Here's what it looks like. It looks just like the Scion XB. In fact, it used to be a Scion XB until the motor was taken out, special battery packs were put in, and along with an electric drivetrain. You might be thinking, what's the range on this Xbox, E-Box that I drive along? Well, it's about over 100 miles, somewhere between 100 and 120 miles per charge. How do I charge it up? Well, it just so happens I use a plug that looks just like this. Plug it in overnight, the next day, you've got 100 miles at least per charge. This is my second electric car. I got another one made by Toyota. It's got over 30,000 miles on it, not a single one of them requiring a single drop of gas. Insomma, devo dire, impercettibilmente americano il modo di parlare di Tom Hanks, è proprio Yankee fino al midollo. E tra l'altro Tom Hanks fa parte di quella schiera di attori di Hollywood che proprio hanno fatto questa scelta di verdizzare le loro vite e amano pubblicizzarla, giustamente, perché sono delle figure pubbliche e sperano che magari la gente li imiti, anche solo perché appunto sono delle persone famose. E quindi lui dice "We are back". Probabilmente questa scenetta di far vedere a più persone possibili la sua auto verde l'ha già fatta, perché dice "we are back", siamo di ritorno, quindi immaginiamo che già in passato gli americani lo abbiano visto guidare auto non inquinanti. Infatti in questo filmato lui è proprio alla guida e lo dice "you are now driving along with me". Along with me, quindi to drive along, con me, quindi si può usare anche, non so, to come along, vieni con me, quindi è un rafforzativo, perché anche poteva semplicemente dire "you're driving with me", ma along with me dà proprio l'idea, facciamo questa cosa insieme. Lui lo sa che la gente è un po' perplessa, thinking, quindi, però spiega, la prima cosa naturalmente che ci si chiede di queste auto è che autonomia hanno, quindi what's the range? Range è una parola che vuol dire, sì, autonomia in questo caso, ma in generale vuol dire arco, quindi qual è l'arco di autonomia, di tempo che questa macchina può avere? E lui dice it's about 100 miles, che vuol dire circa 150 chilometri, quindi ha un'autonomia di questo genere, il pieno, l'equivalente del pieno di benzina, in questo caso di elettricità, ci fa fare questi viaggetti di 150 chilometri. Tom Hanks se la canta e se la suona perché si fa anche le domande e dice sì, ma come faccio a fare il pieno? Quindi to charge it up, questo è un altro rafforzativo perché poteva semplicemente dire how do I charge it, cioè come la ricarico, to charge it up, qui tipicamente nel suo linguaggio un po' colorito, un po' anche se vogliamo giovanile, dice ma quindi come potremmo dire, come cavolo la ricarico potrebbe essere? E infatti si risponde con altrettanta leggerezza, it just so happens, vi devo dire che succede che I plug it overnight, quindi to plug vuol dire inserire la spina, quindi di notte semplicemente inserisco la spina, come se fosse il caricatore del cellulare. Ma quanto gli piace quest'auto elettrica? Addirittura ne ha due. Dice che questa è la sua seconda, e quell'altra era della Toyota, perché poi ci tiene a precisare che non è un hybrid. Sapete che ci sono questi ibridi dove il motore a volte ricorre alla benzina, a volte all'elettricità, persino alcune barche già funzionano così, ma questa qui no, è pura. Quindi nell'altra però, che forse non era così avanzata tecnologicamente, aveva comunque fatto 30,000 miles, cioè 45,000 chilometri, che comincia a essere una distanza, soprattutto sappiamo che in America e nella West Coast dove abita Tom Hanks si percorrono distanze non indifferenti in macchina. E fa sentire assolutamente così nemici dell'ambiente tutti noi che invece abbiamo scelto delle auto ibride, perché zero, neanche una goccia di benzina, ma neanche proprio in caso di emergenza, assolutamente no. 30,000 miles, not a single one, non una di queste 30,000 miglia, di questi 45,000 chilometri, require a single drop of gasoline, cioè nessuna di queste miglia ha avuto bisogno di una singola goccia di benzina, gasoline. Beh, incredibile, Tom Hanks che è davvero diventato una sorta di paladino delle auto elettriche, ci ha convinto. Abbiamo parlato di ambiente perché siamo a proprio pochi giorni dalla giornata della Terra. Per sapere di più invece del progetto dell'Alaska di cui abbiamo parlato prima, vi rimandiamo al nostro English 24 in edicola. La nostra trasmissione si conclude qui, io ringrazio Giorgio Matei in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'auguro di una buona serata.